обеспечения и ускорения документооборота предлагаем следующие услуги. Курьерская доставка по СПб и Ленобласти. Курьерская доставка по России. Сканирование, копирование и распечатка документов. Услуги хранения. Отправка документов Почты России. Работаем. Понедельник, пятница с 9 до 21. Суббота с 10 до 12. Автоматическая трансляция. Прикататься и написать номер телефона. Осуществляем полное техническое обслуживание автономных водителей. Фрибастер, Эпиштейкер и Пластация НАР. Тогда автоном 10, canale 10 cambio, attenzione, canale 10 cambio. Parla Billy, se lo chiamiamo. Billy. Come Bobby. Sì, biondo. Allora, dando un mezzino. Ebbene, ma tu ce l'hai? Sì, ce l'ho io. Cazzo. A cambiarlo, tu ci pensi? Beh, se ce l'ho io sì. E vai cazzo qua a lavorare se tu mi lavori. No, già, dopo me lo tieni, dopo devo andare al Verdi, dopo me lo tiene mia cognata. Ah, ha poco un peso. Andare, e beh, ancora con l'influenza, sì. Sì, un poco strano. Gabriele, cosa c'è? Troppo mi alzo, mi metto io. Pensavo, tutta la sera quasi dormito. Io sì, ancora peggio. Più cago cago, peggio è, Andù. Più stai caricato, peggio è. No, che alle notte sono rientrato alla una di notte. E il caffè, va bene. Allora. Ai parchi. E a cosa ero? Era al teatro comunale, ero. Era Ghisù, a Gione, Ghisù sotto specie di comico, dai. Ah, poi un peso, a Gione si chiama. Era Giubuccio, Anzone era Giubuccio. Agnone, è vero, però per carità che schifo. Ma che cazzo si fa ascoltare quello lì? Un teatro, ti dico già così. Era pieno. Allora. Per carità. Un cagone che non ti dico. Non posso immaginare. Eppure, vedi, eppure c'hanno. Cazzo c'hanno la gente che ci va. C'hanno i suoi fans. Che cosa è? Vale fianco di culo e morisce. Cioè, ridendo per stupidaggini. Ridendo per stupidaggine che diceva. Vai ammazza di vai, cosa? Cazzo, un camion di roba, ma un guaccio. Purtroppo è saturato, ma non essere. Vabbè, grazie a quello abbiamo lavorato. Tu sei guaccio. Sì, c'è anche lavoro, cosa vuoi di più? Se tu lo stati così. Sì, ma fai. Cioè, non so proprio fare il comico. È un agnone, eh. È meglio coso, Pintus, senza media voci. Mastromi. Non ne sanno fare come città adesso, sono guasci. Ormai sono rimasti in base a carriera, cosa rimaneva? a fare le macchie di fare i semi, li va a macco e poi guadagna il culo, anche guadagna le buche a fare le macchie. So macchi falsi, so che da me non so così macchi, no, fatene le macchie per fare idea, per fare di na, compreso, va. Vabbè, nessuno c'è, non c'è tanto per qua, questa frequenza è molto proprio, questa frequenza è molto proprio, e di là una cosa, cosa ti posso fare? Io ho smontato alle 2:30 da stamattina, delle 5:30, 5:30 fino alle 2:30, ma domani sono caduti. Già lo so, già. Lui va troppo un po' bene messo. Io purtroppo non assistere il bambino, che cosa, vai, sei scendato, che cosa. Tra un po' gli do qualcosa a mangiare dopo. E se dovrebbero fare la stagione dove siamo noi, il campeggio. La stagione? E ogni cosa ci abbiamo il campeggio da fare i servizi. Per tante scorse non l'ho fatto. La stagione di più di là non la fate. No, magari. No, ma si fanno. Non si troppe di nave, boh. Ah, la luce già ce l'ha visto, il vito che non ce ne dava, ma che cane si è, se vuoi così, se no pecca di acro. Impossibile lavorare così. Purtroppo bisogna farlo, ma è possibile, e purtroppo si è fatto, ma tu, cosa arriva? Perdi che la colpa di loro che non pretendono, non dico no, tu paghi se devi fare così, se no non te ne voto servizio. E vabbè, ma però loro dicono così perché se no per la gente, capito? Loro prendono un pezzo tirato, ma per un'altra gente, non è così, non è così funziona, lo davano un burraco per la gente. Ma no, non è giusto però, no, non va bene così, perché io penso sempre che non va bene, cioè bisogna, cioè se tu vieni da me a fare un lavoro devi avere queste condizioni, se no non lavoro, tu vieni da me, cioè non è giusto mettersela nel di dietro uno con l'altro. Devono essere tutti uniti perché il lavoratore è il lavoratore, chi ci rimette? Ci rimette chi lavora, no? Andy non ne ha tutti nulla. Lo so, non è così, comunque non è così. Io un bel concorrenza, cioè un bel per me. Perché tutti quanti se la fanno mettere nel di dietro. E se il baile si va a fare a Darizzi. Guarda tu, mi stacco un attimo, casomai ci sentiamo più tardi se ci sia ancora. Ok, eh. Cosa c'è Gabriele? Gli applausi mi si prende. Adesso ti porto là. Ciao. Tanto, allora. Hola, attenzione 10. Hola. Hola, attenzione canale 10, Gabriel. I just can't remember the handle on end up, so engineer, but I know you are General Kelly. Monkey Brain on the bottom side of Motor City getting down. Put some audio. You had some good sounding audio in there. You had some real good sounding audio up in there. I'm talking when you first keyed up, key back now. Put the bottom side of Motown got down. I didn't want to know if that was 636. I wanted to know if that was 636 on the West Coast. That's what I wanted to know. I wanted to know if that was 636 on the West Coast. The bottom side of Motown got down. I guess not. I guess it wasn't. The bottom side of Motor City, Tell him the switch is done. I just do two for him. Dylan, quit fussing and start talking. What he need? What you need, Frank? What you need out there, Frank? Good. I know where I'm here. Good. Hey, I ran into a bunch of them cat-making bicycle boys too. They